Dunque, questa fino adesso è la comprensione. La comprensione è solo il primo passo. Per la comprensione deve essere messa in pratica, deve essere fatto qualcosa per cui dal piano puramente mentale di comprensione diventa un piano operativo fisico nella vita di tutti i giorni. Ecco qui, quindi c'è tutto da inventarsi come fare. Sul sito c'è la voce scrittura dove è indicato, adesso comincia ad essere abbastanza più articolato, cosa serve la scrittura, perché è utile, in quale modo, perché. Ecco, quindi la scrittura. Poi ci sono tante altre cose da fare, perché la scrittura serve se serve a capire quali sono le nostre reazioni, no? Per esempio, qual è, c'è stato un ogni volta che c'è un trigger dall'esterno o anche dall'interno. Mettiamo che sia dall'esterno, una richiesta che qualcuno ti fa, richiesta. Se questa richiesta attiva dentro di te o senso di rabbia o senso di oppressione, perché anche fare di dovere, insomma, non è che l'oppressione, anziché prendertela con questa persona, anziché prendertela con te e giudicarti, perché questa è attivazione del giudice, no? Del persecutore interno, puoi vedere, ah, va bene, benedico questo evento perché. È come se io abitassi in una casa, è venuta una piccola, piccolissima scossa di terremoto che non ha fatto nessun danno particolare, però mi è venuta una crepetta, una piccola crepa in un muro. Questa crepa nel muro indica che c'è una colonna portante che non è sistemata bene. Allora sapere, avere questo avviso vuol dire che io posso mettere in riparo una casa che altrimenti rischia poi di crollare, no? Quindi sono contento se me ne accorgo, è una spia, no? Oppure ti capita che c'è la macchina, vedi che il serbatoio è spesso vuoto, non capisci perché, c'è un buco, lo porti al meccanico, non lo trovano mai questo buco. Un giorno hai la fortuna che incontri qualcosa che ti fa fermare e improvvisamente vedi il buco e in quel momento sei contento perché lo puoi tappare, prima sei senza possibilità. Tieni conto che nel mondo di oggi le convinzioni che sono qui nel karma collettivo dovute al dove domina questo modello qua della prevaricazione, non c'è nessun interesse a sviluppare know-how rispetto alla liberazione di se stessi, anzi c'è l'interesse contrario, renderci schiavi. Quindi le convinzioni fondamentali che abitano questo mondo sono che noi non possiamo cambiare, che le emozioni dipendono dagli altri e che quindi quello che ci succede in fondo ce lo dobbiamo subire. Ecco. Non ci viene spiegato, insegnato con chiarezza come si fa a liberarci, cioè essere liberi, essere persone che hanno visione. Perché capite che persone che hanno visione dove vanno a finire? Vanno a finire qui. Ma se vanno a finire qui, tutto il mondo costruito oggi viene smantellato, eh? Tutti i rapporti di potere che ci sono oggi vengono. E quindi oggi c'è un interesse da parte dell'elite di mantenere questa inconsapevolezza nelle persone.